Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E allora, eccoci qui. Allora, buonasera da Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino Spolaore, che anche questa sera, eccezionalmente, oggi è lunedì 19 agosto 2013, eccezionalmente, dicevo, per dare spazio, ovviamente, a un altro live, un'altra serata all'insegna della musica dal vivo in acustico, estremamente in acustico, perché ci sarà semplicemente una chitarra e la sua voce, con Daniele Bonadei. Però prima consentitemi di salutare il mio compagno di tantissime avventure e di tantissimi viaggi. Sono un po' emozionato stasera, chiedo scusa umilmente, e cioè Maurizio Calzavara. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Stasera sì, c'è un amico, venuto a trovare un amico improvvisando. Sì, è stata una cosa improvvisa, improvvisando in tutti i sensi. Per narrare, una raccontare, suonare, vero, vero Daniele? Una vera improvvisata. Una bella improvvisata. Come dico sempre io quando suono, a noi piace così. A noi piace così, se non improvvisassimo. Noi rocchettari e no, piace così. Rocchettari, bluesmen e quant'altro, molto, molto volentieri sono venuto a trovarvi, insomma, è stato... Poi avevo dei debiti di spritz con Agostino, vanno anche onorati a un certo punto. Assolutamente onorati, i debiti di spritz vanno sempre onorati. Quelli padovani soprattutto. Quelli padovani, assolutamente. Diamo un benvenuto quindi a Daniele Bonadei, che avete poc'anzi sentito la sua voce. Ciao Daniele, ben ritrovato. Grazie Agostino, grazie Maurizio, ben trovati a voi e grazie a tutti quelli che stanno ascoltando ovviamente. Certo. Prima di affrontare quest'ora e mezza in sua compagnia, vi ricordo i nostri dati, il nostro numero telefonico in studio è lo 049-875-6423, poi le nostre frequenze, cioè 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, poi ancora il nostro sito dove ci potete ascoltare in streaming, cioè www.bluradioveneto.it, 24 ore su 24, cliccando su Ascolta la Radio sentirete la nostra emittente ogni volta che volete in qualsiasi punto del mondo, perché lo streaming sapete meglio di me. Insomma, arriva dappertutto. E poi ancora le nostre pagine su Facebook. A proposito, questa sera, se volete mandare anche qualche domanda, fare qualche domanda a Daniele Bonadei, vi ricordo le nostre pagine, cioè semplicemente Blu Radio Veneto 1. La seconda è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che salutiamo, che finalmente è tornato dalle ferie. E poi ancora quella mia, se volete scrivermi anche nella mia, insomma, poi io a mia volta girerò, insomma, le domande a Daniele, cioè a Agostino Spolaore. Scrivete anche in privato come volete, così posso tranquillamente leggere quello che voi scrivete. Credo di aver detto tutto. Maurizio, a te. Sì, in ogni ti caso vedo ansioso. Sì, perché di è un jukebox stasera, un jukebox con Daniele. Una cosa positiva, Daniele ha riacquistato i suoi bei 100 kg. Non so quanto positivo. Fat Boy Guitar. Sì, poi vedremo il mio medico quando mi rivede, però per il momento sì, me la sto godendo e mi rilasso e insomma, oltre alla chitarra mi piace mangiare, quindi molto volentieri. Ma molto dai, volentieri. Non si era visto. Sì, perché non so, sei solo affamato di cibo, ma musica e cibo si accompagnano, si uniscono. Sono sempre vicini. Insomma, un accordo può essere una bella spezia, oppure può esserci un bel chorus che può essere un bel dolce, un bel finale. Insomma, io faccio spesso, anche quando faccio lezioni di chitarra, faccio spesso paragoni. Ecco, tu fai lezioni di chitarra, insegni ai ragazzi a imparare lo strumento praticamente. Sì, partiamo dalle cose più elementari, come proprio veramente imparare a mettere le mani sulla chitarra, alle cose che non più, è una cosa molto semplice, più complicate. Bisogna e l'impostazione imparare. Probabilmente è la cosa più difficile, però finora nessuno è tornato a lamentarsi, quindi speriamo di stare facendo la cosa corretta. Poi fino alle cose, le cose più avanzate, c'è chi, insomma, i Guns N' Roses e gli AC/DC sono ancora sempre nell'occhio del ciclone, piacciono sempre e c'è sempre qualcuno che vuole saperne qualcosa. Però poi ci sono i Pink Floyd, insomma, anche gli adolescenti che imparano a suonare la chitarra hanno in mente Another Brick in the Wall, insomma, anche i classici, super super classici, oltre ovviamente al rock un pochino più pesante. Poi certo, c'è chi magari è appassionato di blues, ho avuto degli allievi appassionati di country, figurati poi con me col country cascano proprio male, diciamo, no? cascano malissimo. E una cosa fondamentale prima di cominciare a parlare del tuo pezzo, che è molto importante: tu sei un cleptoniano di ferro, assolutamente cleptoniano. Beh, mi piace, mi è sempre piaciuto molto Eric, ho sempre condiviso, ascoltato gli dischi, penso di averli tutti o quasi triturati musicalmente nella tua testa. Sì, c'è quel tocco, insomma, c'è qualche cosa che mi... Ma perché clepto e non so qualche altro? Perché clepto? Assolutamente clepto, slow hand, mano lenta. Forse proprio per quel suono. A parte invece quella... Che poi, Clapton e blues è una cosa assieme. Il blues arriva da più lontano, però insomma il suo modo inglese di porsi, quasi delicato, seppur insomma quando lo ascoltavo nei Cream fosse particolarmente violento, però quel modo di porsi, poi quel tipo di suono, quella ricerca di suono, io ricordo ancora quando ero ragazzino, mi ricordo di aver ascoltato questo brano di Zucchero su Ora Incenso e Birra, dove lui suonava Wonderful sì. World, c'era questo suono di chitarra incredibile e insomma non ho potuto cercare di interiorizzare, cercare di studiare, capire un pochino le cose. Poi chiaramente cerchi di filtrarlo con quello che sai fare tu, insomma, poi lui è lì e rimane lì ed è bravissimo. Beh, però insomma cerchi di pensare cosa farebbe Eric Clapton se dovesse fare questa cosa qui nel piccolo, oppure beh, insomma chiaramente poi c'è sempre l'amore per Keith Richards, che è l'altro grande insomma ci sono. Adesso parliamo del tuo pezzo. Cosa potrebbe fare Eric Clapton un pezzo come Telephone Blues? Telephone Blues, ma in realtà lui ha suonato un Telephone Blues, una versione di un altro blues. Quando ho dato il titolo non avevo presente, ma aveva il senso di una telefonata questo brano. Probabilmente lui avrebbe fatto qualche cosa di molto caruccio con la sua Martin, o forse con un dobro, con qualcosa di elettrico. Molto elegante rispetto a qualche altro chitarrista molto più potente. Lui non è potente, è potente ma è elegante. Esatto, lui non è uno che spacca le corde, però ragazzi si fa sentire davvero, non ha, insomma, magari c'è sempre qualcuno che dice ma si fa sempre troppo poco, ma quel troppo poco a noi garba molto, perché quel troppo poco, insomma, è sua la frase, più togli e meglio è. Chiaro. Come è nato Telephone Blues, Daniele? È una costruzione un po' strana. È nato semplicemente da una telefonata ricevuta da una persona e proprio mentre io stavo suonando il classico blues, ero lì che stavo facendo. È squillato il telefono, quattro chiacchiere, poi vabbè, insomma, il tutto è stato un po' romanzato, però sulle prime ho detto, caspita, illuminazione, telefonato, io sto suonando un blues, vabbè, questo diventerà Telephone Blues. Ho scritto queste tre strofe proprio nel classico, diciamo un po', usando la grammatica del blues, cioè tre versi con una ripetizione, poi il primo e il secondo verso uguale e poi tre strofe. Uh-huh. È stato registrato in maniera molto, come si dice, Old school, esatto. Perché? Perché old school? Un paio di microfoni davanti alla chitarra, un microfono per chi cantava e basta, senza ripetizioni. È stato registrato quattro volte di seguito, è stata scelta la terza versione perché forse c'era già un po' di significato, poi vabbè un pochino di lavoro sul suono, ma la base era proprio il suono della chitarra. Che chitarra? Una chitarra, vabbè. Ma quanto curioso sei. No, bisogna proprio, la gente deve sapere come è nato Telephone Blues. Beh, io, un maniaco come me, vorrebbe sapere con chi è stato. È stato suonato con una chitarra canadese che io ho comprato circa 3 anni fa, che è una delle mie tra virgolette armi preferite, che è una chitarra della Godin, che è una casa canadese, e sembra un po' la vecchia Echo degli anni 60, che io ho uno zio che aveva questa Echo con le classiche buche AF appesa in salotto. Ah, vedi. Io le prime volte andavo a rubargliela e la suonavo. Adesso sarà ridotta tipo una, sarà completamente accartocciata. Però ho rivisto questa chitarra e ho voluto. Facciamo questa un jukebox. Ti ricordi qualche anno fa? No, adesso non si ricorda. Adesso ascoltiamo il pezzo. No, un secondo, è finito. Ti ricordi qualche anno fa, qualche anno, negli anni 60, c'erano i Rocks che suonavano le Echo, famose, sì? Echo, te li ricordi? Sì, al Piper? Sì, certamente. Che avevano una certa struttura, un certo disegno. Ah, un certo disegno. Beh, poi loro, insomma, queste chitarre qui erano un po' dure da suonare, perché insomma, come gli Uteri all'inizio in Italia era un po' macello, però poi dopo hanno ripreso. Addirittura Shapiro aveva fatto una richiesta per ritrovarla, una che era stata rubata, poi gliel'hanno ritrovata. Mi ricordo, avevano fatto questa cosa durante una trasmissione di Mike Bongiorno. Addirittura c'era Shel Shapiro che poi aveva suonato qualche cosa, mi ricordo ancora questa cosa. Sì, comunque le chitarre, ho una passione per le chitarre di un certo tipo, magari sono nuove, però hanno una forma vintage, poi le invecchio io tanto per come sudo, come tutte le serate che ci faccio, chiaramente poi invecchiano. Giustamente Agostino ci dice, sentiamo il pezzo all'era. Volentieri. Ok. No, I won't call her. Okay. Andiamo. Thank you. together. Someday I hope we can stay down the night. I don't mind. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Non ti sei fatto mancare nulla, dal colpo di tosse alla risata, Daniele, qui c'è un po' di tutto dentro. C'era un po' tutto, molto spontaneo comunque in realtà, il colpo di tosse, perché vabbè, insomma, faceva un caldo che te lo raccomando in quello studio, ma vabbè, però... Non hai pensato di toglierlo, no? No, abbiamo lasciato così. Tutto molto spontaneamente, nel senso che sotto c'era anche una percussione, che è un arnese che io ho comprato, che ha una specie di microfono che sente quando io batto il piede, e non sono tutte regolari quelle cose, perché nel frattempo stavo suonando, però è stato lasciato tutto così perché voleva essere spontaneo. Sì, in realtà era buona la tela, come dicevano, abbiamo fatte quattro, però veramente abbiamo voluto lasciare così com'era, quasi come live, insomma. Sì, quasi come live, sì, qualche riverbero qua e là, ma è stata roba da poco, e ci è garbato così, diciamo. Questo è un blues italiano, cari ascoltatori, italiano, non è americano. E perché dico questo? Perché c'era una certa rivista, e si chiama Guitar Play Magazine, la Bibbia della musica per chitarra, ha ospitato un sacco di volte, più di una volta, Daniele. È una cosa molto importante, Daniele, questa. Non è da poco farsi ospitare da una rivista di tal genere, di tal settore e di tale importanza. Guarda Maurizio, ti posso dire che la prima volta che il direttore mi ha scritto, allora ancora su MySpace, si parla del 2008, per dirmi che ero stato recensito, lui teneva una rubrica degli otto grandi, loro sceglievano tra quelli che trovavano su MySpace, amici diciamo della rivista, che bello che era MySpace, tra l'altro, scusate la mia nostalgia, ma era semplice e efficace. Sono pienamente d'accordo con lui, io sono nato poi con MySpace, quindi però lo sai che lo stanno rifacendo, però non è più... Sì, ho visto, ma era efficace, sono scappati tutti. Una paginetta con tre foto i tuoi brani era il massimo che si potesse avere, hanno dovuto rovinarlo, vabbè, pazienza. Vabbè, pazienza. Come si dice, però io ho trovato qualcosa di simile, che è una bella pagina, che era Nation, dove ho ricaricato dei brani, perché ho chiuso il mio account, visto cosa stavano combinando, ho ricaricato di lì, ed è un po' come il vecchio MySpace, quasi, quindi vabbè, insomma, chi è un po' nostalgico di quelle cose può finire lì sopra. Io molto, c'è ancora la mia pagina comunque, se vuole. Lo so lo so, non l'ho tolta per nostalgia più che altro, ma mi sembra giusto. E la cosa che è successa, che vabbè, lui mi ha scritto su MySpace, io pianto, perché veramente per me non so, il coronamento di un sogno. Compro questa rivista dal 97, per me 11 anni dopo finire recensito sopra con tanto di foto e citazione di un brano, una specie di brano new age che avevo scritto, che era una cosa inizialmente progettata per una colonna sonora, e caspita ragazzi, un'emozione molto incredibile, molto. Insomma, sono quelle cose che dici, che rimangono. È successo a me, infatti ho comprato tre copie della rivista ma ce l'ho a casa, ma quando la apro non sono sicuro di essere io, quindi è stata un'emozione grandissima. E questa emozione grandissima, grazie alla rivista, e poi è volata oltre oceano, è arrivata anche negli Stati Uniti. Sì, fondamentalmente è stata poi apprezzata per una serie di cose, perché poi mi hanno pubblicato una piccola lezione su una pagina, poi hanno pubblicato un altro articolo su, diciamo, sulla mia strumentazione. Allora vai, chiaramente c'è tutta questa attenzione. Non spiego, cari ascoltatori, la serie di strumentazioni incredibili che ha citato in un'intervista Daniele, non la cito perché sono assolutamente, per me che sono assolutamente ignorante in questo campo, non vorrei. Però guarda, adesso si è molto sfoltita la strumentazione, perché ho preferito rimanere con meno strumenti, perché poi gli strumenti sono un po' come la macchinetta del caffè, se non li suoni il caffè non lo fanno tanto bene, vero, quindi ho preferito rimanere con meno strumenti, che sono quelli che poi utilizzo per il mio lavoro, e ho preferito così, ho sfoltito un po', insomma, troverò qualcuno che farà andare queste macchinette del caffè giù come Dio comanda, insomma. E vabbè, poi c'è successa questa cosa. Nel frattempo, su questa recensione, il direttore ha anche citato questa versione di Smoke on the Water che io ho fatto. Che poi facciamo dopo. Che dopo faremo sentire. Chiaramente. Insomma, anche lì un'altra cosa successa molto poco all'interno di questa rubrica, per cui doppiamente smosso. Contento. Insomma, poi sono stati un po' di responsi positivi anche rispetto magari a Telephone Blues, piuttosto che altre cose fatte, link mandati in giro, ma solamente così. Pensando, sì, figurati, mando il blues a questi qua che l'hanno inventato. Invece è piaciuto. Invece è piaciuto. E sono contentissimo. Ma io sono curioso, sai che sono curioso di natura. Come mai hai fatto il video su quelle rotaie? è una ferrovia americana, vero quella? Quella lì è una ferrovia, non è una, proprio una ferrovia americana, era una ferrovia tra l'altro in funzione, nel senso che chiaramente noi non possiamo fare le cose fatte bene, siamo entrati di sfroso all'interno di questo, di questo dietro stazione, non voglio dire la località. No, non diciamo la località. Non diciamo la località, la cosa interessante è che io quel periodo avevo un'allergia pazzesca all'ambrosia e... ho dovuto scavalcare questo terreno che aveva tipo dei cespugli di ambrosia di un metro e mezzo. Io ho starnutito fino alle 5 del mattino del giorno dopo, ma è stata questa cosa così. Quello che mi riprendeva ogni tanto mi diceva: va che fra un po' arriva il treno, quindi spostati. Fate proprio le cose più illegali possibili abbiamo fatte, giustamente. Un po' di goliardia ci vuole, insomma. Sì, ma se no non sarei diverte, un po' di divertimento ci vuole sempre. Certo, certo. Prendersi troppo sul serio fa male, secondo giusto, me. Giusto. E stasera fino alle 24 avremo un jukebox vivente. Ah, sei tu, ci hai preso la monetina. Adesso ti attenzione la prima alla monetina, però. La prima monetina. Nella scaletta che abbiamo fatto io e con Agostino e Daniele è partito con un vecchio pezzo. Si chiamava Di Celentano, di Adriano Celentano. Perché un pezzo di Adriano Celentano? Perché? 1969. Lui citava un articolo di Bolero, io l'ho tirato fuori un articolo di Bolero, in cui diceva: Celentano è un bel pezzo, vorrei fare lo stesso successo che ho fatto con Azzurro, 1,5 milioni di copie. Non si avverò il successo di Azzurro, però ci andò vicino. Guarda, ti posso dire che musicalmente, Azzurro sappiamo che è di Paolo Conte, quindi poi la sua versione è molto che faceva più... parte del clan all'epoca, eh? Esatto. Era in giro, lui ha scoperto un sacco di gente Celentano. Questo clan era un gran clan. Era un gran clan, sì, esattamente. In molti modi, diciamo. Perché questo brano? Perché leggendo il testo... È stato un po' criticato, era di Berretta e del Prete il testo. Sì, hanno detto è maschilista... Chi lo sa, crudele, eccetera, eccetera. Però io ho visto dei riflessi visti nei brani blues. Perché c'è una sofferenza, c'è la gelosia, c'è questa donna che non sa dove stare, che fa diventare geloso un uomo e poi sta con un altro e questo poi la rifiuta. Ci ho visto del blues. E questo qui è un brano, è forse l'unico brano italiano che io faccio quando vado in giro a fare serate, perché poi lavoro su brani blues, brani country di un artista di cui poi parleremo sicuramente, però è un brano che secondo me è veramente molto, molto forte, almeno a me dice, perché comunque è successo a tutti di essere rifiutati, magari non sulla spiaggia, no. Io non so neanche nuotare, figure su che spiaggia posso essere andato, no? Però è successo a tutti di essere rifiutati, certo, da ragazzini, e la gelosia, cioè, e questa qui è la storia di quello che avviene dopo, e forse uno alla fine dice, quando lui la manda via, dice: ma hai fatto anche bene per una volta, insomma, non ce ne vogliono le ragazze che sono, come dico sempre, la migliore invenzione che il Signore abbia messo in terra, dopo la macchina da stampa, secondo me, assolutamente. No? Però dopo, così dice, dopo la rotativa, certo. Però secondo me è una cosa piuttosto interessante questo testo, come è stato scritto, molto semplice, con una forma, anche qui il blues e il country sono canzoni tra virgolette da tre accordi, che potrebbero essere le cose più noiose del mondo, invece ogni brano è diverso, e anche questo qui ha una forma molto, molto popolare musicalmente, per cui io ho scelto questo brano perché mi piace molto, poi lo sento, certo, è certo. Uno dei brani, io cerco sempre di suonare brani che mi dicano qualcosa quando li canto, e quindi per cercare di comunicare qualcosa, quindi l'hai ricostruito, l'hai veduto a tuo piacimento anche musicalmente, in qualche modo sì, poi ci sono tanti strumenti nella versione originale, invece io comunque se la faccio solo con la chitarra sono un pochino più libero di lavorare, se invece poi c'è la percussione, il contrabbasso, si fa qualcosa di un pochino diverso, però insomma è sempre rivisto un po' alla maniera Daniele, diciamo, alla maniera Daniele, come sempre. Ok, la sentiamo adesso. Vogliamo sentirla? Certamente. Sentiamola. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché, perché, perché, perché, perché io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me, tua moglie dov'è? Dovevi immaginarti che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te. L'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Coi tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo cuore. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza. Mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me. Dal letto io mi alzai e tutta la guardai, sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, ma di pietra io restai. Io l'amavo, la odiavo, ero contro di lei. Se non ero stato il suo ragazzo, era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, rimandandola dal tè. A letto ritornai, piangendo la sognai, sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua e nel sogno la baciai. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Gli spritz non hanno fatto effetto. È la prima volta in assoluto che facciamo una cover di Celentano qua dentro. Abbiamo fatto solo Azzurro, però ci sarà anche l'ultima. Azzurro l'abbiamo fatta, però una canzone non famosissima o meno famosa è la prima volta in assoluto. Bella però anche questa versione acustica, semplice chitarra. Sai, Daniele scava sempre. Anche abbiamo improvvisato, però già la prima sorpresa è grande. Sì, è una bella cosa. Una bella cosa. In scaletta c'è un altro pezzo. Questo è il pezzo che ha scosso le riviste musicali di chitarra. Sì. Però vorrei dire una cosa a proposito di blues. Questo è Smoke on the Water, che lo conoscono tutti, è fatta su quattro note classiche di blues. Sì, proprio. Eccole là. Appunto. Quindi classicissimo. Tutti vogliono suonare Smoke on the Water. Poi ci sono quelli che la fanno. Un mio allievo che la fa così. Io dico lascia stare, non va bene, non va fatta così, insomma, ognuno la fa a sua maniera. Piace, l'ha fatta anche Jack Black nel famoso film School of Rock, non l'ha fatta tanto bene però lui, insomma è forse la canzone più suonata. Ci sono negozi di strumenti negli Stati Uniti dove c'è il cartello è proibito su una Smoke on the Water e Starway to Heaven. Te lo stavo per dire io, che anche quella canzone poi lì. Puoi raccontare ai nostri ascoltatori, forse pochi lo sanno, perché è nata Smoke on the Water? Perché c'era Frank Zappa? Perché c'era qualcuno che ha lanciato il fumogeno dentro il teatro di Montreux? Il testo che è un po' romanzato, chiaramente, racconta molto bene. Loro erano sulle rive del lago di Ginevra, nello studio, volevano stavano registrando il loro album Machine Head, che 1972. Esatto, e l'anno scorso sono stati 40 anni di questo album, ed è uscito anche un album di cui potremmo discutere, insomma. Agostino provoca, in sottofondo. E loro a registrare, nel frattempo c'erano Frank Zappa con le madri dell'invenzione, perché necessità è madre dell'invenzione, Frank Zappa and the Mothers, erano lì vicino e credo addirittura nel casinò, sì, nel casinò, e qualcuno ha sparato questo petardo prendere fuoco, e da lì è successo un delirio, e ovviamente anche loro hanno dovuto arrangiarsi, si sono arrangiati poi in un hotel, hanno cominciato a registrare in questo hotel, e poi nell'hotel c'è la storia che c'era il buttafuori che cercava di tenere gli altri residenti dell'hotel, che non volevano sentire il rumore di Deep Purple. Pensa. Non volevano sentire il rumore di Deep Purple, che hanno fatto un album spettacolare con questo brano. Vabbè, noi dobbiamo ringraziare Ritchie Blackmore. Ogni tanto qualcuno dice sì, ma Ritchie Blackmore, ma sì, Ritchie Blackmore, vero, ragazzi, Daniele, ha inventato roba. Esatto, è vero, Daniele, che John Lord guardava la chitarra di Ritchie Blackmore mentre suonava. Sì. La guardava, non guardava l'organo Hammond, guardava la chitarra. Non solo, John Lord ha spiegato, John Lord buonanima che ci ha lasciato l'anno scorso, purtroppo, che è stato un grande riferimento, che io sono nato tastierista. Tu stai nato tastierista, suonavi l'Hammond. Un grande riferimento. John Lord non sapeva, con l'organo Hammond che aveva ai tempi, come tenere testa la chitarra di Ritchie Blackmore. Allora da lì ha cominciato a lavorare con un amplificatore Marshall per chitarra per mandare in distorsione l'organo, e da lì ha cominciato a star dietro, sì, agli accordi di Ritchie Blackmore. Esattamente. E come l'ha inventata Smoke on the Water, caro Daniele? Ma è venuto fuori in maniera, io non mi definisco un chitarrista jazz, come si dice, ma suono delle cose jazzose, diciamo. Jazzose. Cui io ho pensato di lavorare con qualche accordo un pochino più morbido, che l'hanno fatta tutti in maniera strana, però io mi sono tirato fuori questa cosa un pochino più latina. Come l'hai identificata? E l'idea è venuta fuori così, con degli accordi molto semplici, ma ascoltiamo. Came out to Montreux on the Lake Geneva shoreline to make records with a mobile. We didn't have much time. Frank Zappa and the mother were the best place around. But some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Smoke on the wall. Fire in the sky, smoke on the water. They burned down the gambling house, it died with an awful sound. Funky Claude was running in and out, pulling kids out the ground. When it all was over, we had to find another place. But Swiss time was running out, it seemed that we would lose the ray. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. Smoke on the water, smoke on the water, smoke on the water, fire in the sky, smoke on the water, smoke on the water, smoke on the water, fire in the sky. Caffè Versio. sì, ma, sì. Coniata dal direttore di Guitar Player, chiamata la Café Verge, esatto. Ha detto, c'è stata la sua versione l'idea della sua versione da piano bar, la versione da caffè, insomma. L'hai fatta sentire ai tuoi allievi la Café Verge? Sì, la conoscono perché comunque poi vabbè, io con i miei allievi ho sempre un rapporto molto, molto libero, nel senso che mi piace condividere quello che succede, quindi faccio anche ascoltare, dico, se vuoi ascoltare un po' delle mie schifezze, dico, vai a questo indirizzo, ti sentirai qualche cosa. È piaciuto, qualcuno ha trovato anche ispirazione magari per fare qualche cosa più in acustico, insomma, però è chiaro che il classico piace sempre. Classico. Piace sicuramente. Poi da lì, vabbè, questo arrangiamento è piuttosto vecchio, poi sono arrivati anche altri arrangiamenti come quello che ti ho fatto sentire fuori onda prima, quello di Long Train Running, che accendiamo un secondo. Sì, lo accendiamo. Una cosa, Long Train Running, che ci ricordiamo come essere una che cosa che piace tipo... molto ad Agostino. E io l'ho fatta in questo fatta. L'ho rivista, e diciamo, rivista, che l'ho fatta io, adesso sono arrivato io, no? Down around the corner, half a mile from here, see them both around and you watch them disappear with a look. What would you be now? With a look. I saw Miss Lucy down around the track. She lost her home and family, and she won't be coming back with a load. Where would you be now? With a beh, una versione bella, interessante, creativa. Un'altra versione jazzosa, diciamo. Jazzata, sì. Può essere la sfida. Vediamo se la riconoscete oppure no col pubblico. Di solito dico, se tanto la sappiamo, la fai sempre, quindi va bene. Però piaceva, insomma. È una bella sfida. Poi... l'idea, ripeto, non ho inventato nulla io, nel senso che nel jazz si fa da sempre questa cosa, però l'idea, perché non farlo anche con gli standard pop? Ormai è una cosa che fanno in molti ed è bello poter riprendere semplicemente la melodia, più o meno la struttura degli accordi e rifare un brano. È piacevolissimo. Certo, perché hai rifatto un brano di Doris Day del 1952? When I Fall in Love, Doris Day, 1952. Perché qui cadiamo su un'altra cosa che... Da Operazione Z, dal film, esatto. Operazione Z. Una cosa che mi piace fare è parlare dell'amore, perché l'amore alla fine lo troviamo nel blues, nel country, sì. Comunque, no? Lei mi ha lasciato, sono innamorato di lei, eccetera, eccetera. E ci sono alcune canzoni, tipo Just the Way You Are di Billy Joel, che secondo me è una delle più belle. Accendiamo un secondo Just the Way You Are. E chi si ricorda le parole adesso, Maurizio? Lo accendi solo un momento. È jukebox, no? Don't go changing. Abbiamo accennato molto semplicemente con la chitarra. Ok, ritorniamo a Doris Day. When I Fall in Love è un altro brano che è appannaggio classico della musica jazz, però perché non provare a fare qualche cosa che io voglia sentire in modo un pochino diverso. Gli accordi sono sempre gli accordi, può essere magari un pochino più semplice, io la faccio a modi come fosse un piccolo sketch alla James Taylor, un pochino più un po' così, molto, molto tranquillamente, però l'idea di farlo con una sola chitarra, poi è veramente una bella canzone. Sono molto semplici, poi sono appassionato molto delle atmosfere degli anni 50, così carine, diciamo, no? Dove, quando mi innamorerò sarà per sempre, oppure non mi innamorerò mai. È carino così. E l'hanno fatto anche i Carpenters, l'ha fatto anche Celine Dion, questa versione qua. Ognuno ha la sua versione. Anche Nothing Cool, chiaramente quella del 54, famosissima. Ragazzi, quelle sono bellissime, io non mi permetterei mai di avvicinarmi. Però ho detto, vabbè, senti, una canzone, la melodia mi piace molto, mi piace il testo, e ho provato, adesso vi farò sentire un accenno. l'hai eseguita, l'hai anche Kenny Rogers l'ha fatta, che è un musicista country, ma proprio country quello. Non toccarmi Kenny Rogers. Non devo toccarti. E neanche i Carpenters, perché no, i Carpenters sono citati. Karen Carpenters era uno dei miei idoli degli anni 70-80. Noi l'abbiamo solo citato. Tanto per Maurizio, non tocchiamo, ecco, perché non tocchiamo. Qua. Dopo, E dopo è molto difficile. Dopo finiamo malissimo. Finiamo male. No, l'idea è questa, dai. When I fall in love, you will be forever. Oh, I never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seems to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely all. I never give my heart. And the moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love with you. Anche alla Elvis mi pareva più che James Taylor. Cosa dici? Leggermente alla Elvis. E vabbè, poi sai che io ho questa voce un po' grave, quindi ci va sempre dentro qualcosa. Molto, proprio un piccolo sketch, come piccolo uno volesse sketch. Fare un piccolo ritratto. Questa è When I Fall in Love, mia versione, diciamo. Ottima versione. Adesso ci introduciamo. Ma io volevo aggiungere una cosa sola. Dimmi. Ma perché non fai un CD di questa con queste ballate così? Allora, tu hai una voce splendida in questo senso. Sì, esattamente, cioè, bravissimo. Cioè, in questo genere di canzoni parlo io. Fare mi sto per commuovere, esageriamo. No. dopo ho bisogno i fazzolettoni di carta. C'hai Chiara che ti aspetta qui vicino. Ciao Chiara. Dove va a riposare? Andrò a riposare le stanche membra, come si dice. Ciao Chiara. La ringraziamo, che è tra l'altro una gentilissima che mi ospiterà stanotte. L'idea è proprio questa, nel senso lavorare registrando quasi a lume di candela, proprio chitarra con il contrabbasso oppure qualche percussione, i brani che sento, e poi da lì scegliere qualche cosa, e questo diventerà l'album, insomma. In questo famigerato... A te che piace l'amore, dicevi poc'anzi, no? Quindi sì, è un viaggio, insomma, quando, non so, mi piace pensare a qualche cosa di più cattivo, di più sporco alcune volte, altre volte, non so, cioè, mi piace l'amore per la terra, allora c'è Georgia on my mind, l'amore universale, c'è When I Fall in Love, eccetera. Cioè, sono tutte queste cose, è un piccolo viaggio anche nei confronti dell'amore, perché, insomma, l'amore comunque è dappertutto, tutto, sì. No? Senza voler fare chiaramente buonasera, abbiamo qui venuta per chiederti perdono. non diciamo. Senza fare questo tipo di cose, però insomma un pochino di amore c'è sempre in qualunque cosa facciamo, dalla musica, da quello che fate voi, il vostro grandissimo, che poi voi vi schernite sempre, però il vostro grande amore per la musica è una cosa bella. Io non so se a casa qualcuno vuole fare un applauso per Agostino Maurizio, io lo vorrei fare, no, perché ragazzi, no. Ve lo meritate, perché è un piacere star qui, perché è un piacere stare con quelli che amano la musica. Uno solo. Tanti? Tantissimi. No, insomma, ragazzi, scherzi, noi abbiamo solo la passione, lo sai, te l'ho sempre detto, noi quello che abbiamo di nostro è proprio la grande passione per la musica e per la radio, perché visto che sono tanti anni che siamo in questo mondo, quindi, e ci continuiamo tranquillamente ad esserci in maniera sempre più entusiastica. E lo apprezziamo tutti, insomma, a parte, scusate se ho aperto questa parentesi verso ma di voi. Ma ti avevo già pagato, ti devo ancora dare i soldi. Bene, parliamo dopo. Tu cominci a preparare... L'idea è questa, comunque, far lavorare su un percorso che sia l'amore, comunque magari sotto forma di country o di blues, poi vedremo, però registrato a lume di candela, comunque sempre molto roots, ancora una molto volta. Roots. A proposito di blues, adesso passiamo al blues arcaico, spirituale, quello che ami particolarmente, fa parte del tuo DNA. Sì. Blind Willie Johnson, mito, uno di tanti miti del blues, ma quello proprio arcaico, quello lontano, lontano nel tempo. Blind Willie Johnson, io pian piano sto riscoprendo questi ascoltati, magari sulle vecchie raccolte. Io sono molto appassionato dei cestoni degli autogrill, dove si trovano tutte le raccolte, però a pochi soldi, si trovano a pochissimo delle raccolte incredibili di vecchi brani blues. E, insomma, l'idea di quasi del grammofono di questi qui, che anche loro erano un po' meravigliati del fatto che qualcuno li facesse registrare, mi affascina molto. E l'idea è un pochino religiosa, dato che, vabbè, io vivo una vita teoricamente quasi monastica, nel senso che, vabbè, ho molte lezioni, faccio serate, poi quando posso me sto anche chiuso in casa molto volentieri, perché devo ho voglia anche di studiare, di ascoltare, di leggere. E insomma, questo nessuna colpa tranne la mia, se non leggo la mia anima sarà persa. Ragazzi, lui lo ripete in molti modi, ho una Bibbia a casa mia, se non la leggo la mia anima sarà persa. Però mi piace l'idea di questo che grida, questa cosa. E la prima versione è proprio addirittura senza cambi. Sì. Rimane proprio così, proprio bella. Io poi chiaramente la vedo un pochino in modo diverso, però mi piace questa Nobody's Fool But Mine, rifatta anche da Nina Simone, poi sì, è stata rifatta da moltissimi, un sacco di gente. Io c'ho la lista qua, il penultimo è stato Tom Jones, poi ci sono state Nina Hagen, anche l'ha rifatta, sì, Nina, sì, Hagen nel 2010, Willie Nelson, a proposito di Willie Nelson, nel 2010, e poi il primo nel 1944, un certo Bunk Johnson, è stato, insomma, sono stati recuperati, ognuno ha fatto la sua, poi però insomma, già questo, il fatto che sia stata interpretata da molti ci dice qualcosa, la validità e la grandezza del pezzo, molto, anche qui molto semplice, però il senso religioso, poi anche nei brani, certo, del Man in Black, cioè, insomma, c'è molta religione vissuta a modo anche suo a lui. Insomma, e questa è una cosa che mi piace, quindi Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I don't read my soul below, I have a Bible in my home. I have a Bible in my home. If I don't read my soul below, nobody's fault but mine. Father, he told me how to read. Father, he told me how to read. If I don't read, my soul belong. Nobody's fault but mine. Lord, nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I don't read, my soul belong. Nobody's fault but mine. I have a Bible on my own. I have a Bible on my own. If I don't read, my soul belong. Nobody's fault but mine. Mother, she told me how to read. Mother, she told me how to read. If I don't read, my soul belong. Nobody's fault but mine. Sister, she told me how to read. Sister, she told me how to read. If I don't read, my soul belong. Nobody's fault but mine. Lord, Lord, nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I don't read, my soul belong. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. nobody's fool by mine. Ottima, ottima, bellissima. Grazie. Molto, molto semplice, in realtà. Stasera siamo più sul cantautore, sì, che sul chitarrista, ma va bene così. Ma adesso arriviamo al blues. Perché siamo arrivati al blues? Perché c'è un motivo. Arriviamo a Robert Johnson, riveduto e corretto da un personaggio di cui hai l'anello al dito. Sì. È sempre lui. È sempre lui. È sempre Keith Richards. È sempre Keith Richards, che è un altro di quelli che, va bene, insomma, ne ha fatti di cotte di crude. Di cotte di crude, però vorrei, come si dice in questa sede, spezzare una lancia. Incensare. O come si dice, come si dice in gergo, spezzare un'arancia. Un'arancia. In favore di Keith Richards, perché tutti pensano solo il peggio, e invece la cosa importante è che è un gran chitarrista. Mm. E anche un certo innovatore, perché ha lavorato su delle accordature per chitarra in un'epoca dove sì, lo facevano i più tecnici, ma nel rock era ancora un po' tutto da, un po' tutto da vedere. Da vedere. Lui si è inventato questa accordatura con la quale ha fatto un sacco di pezzi. Però il brano di Robert Johnson, che si intitola Stop Breaking Down, che sentiamo. Dobbiamo dire una cosa: perché è arrivato a Robert Johnson? Che triste. Perché Brian Jones aveva comprato un disco di Robert Jones che ha fatto sentire a Keith Richards. E Keith Richards era impazzito. Era impazzito. Addirittura ha paragonato i brani di Robert Johnson a delle armonie barocche. Effettivamente, comunque, Robert Johnson ha inventato delle cose. L'uso del bottleneck, che è questo strumento. Vabbè, io ho questo qui in metallo. Sentiamo però un secondo. Eccolo, eccolo. Del canti classico, possiamo dire, country blues. Classico. Esatto, nel blues, quindi ci sono un sacco di cose. Beh, lui l'ha utilizzato spesso, ha utilizzato accordature alternative rispetto alla accordatura standard. Un po' perché l'accordatura alternativa? Perché, come diceva giustamente Keith Richards, i fratelli neri ai tempi, non conoscendo la musica, gli arrivava la chitarra, loro accordavano a orecchio. È vero. E quindi poi spostavano gli accordi utilizzando il bottleneck, che adesso, vabbè, è prodotto in vari materiali. Era semplicemente il collo della bottiglia di vino, di birra, che veniva tagliato o spaccato via semplicemente e appoggiato su un dito per poter muovere e dare una qualità vocale quasi a quello che veniva suonato con la chitarra. Spiegazione perfetta, hai visto? Perfetta, niente, semplice. Scusate, è uscito un attimo l'insegnante. Ma perfetta, semplice, ma assolutamente vera. E loro poi hanno rifatto questo Stop Breaking Down, una versione un pochino più funky, diciamo, però più rolling. Esatto, però alla fine, ragazzi, loro, Rolling Stone, poi è presente su un album che è Exile on Main Street, che, ecco, è il loro capolavoro. Diciamo una cosa, che Exile on Main Street è stato in qualche momento lasciato da parte e poi riscoperto lentamente ma progressivamente. È un grandissimo disco loro, registrato tutto in Francia. Esatto. L'hanno registrato in Francia. E loro lo hanno registrato, tra l'altro, con una tecnica molto rivoluzionaria, perché ai tempi si andava tutti negli studi di registrazione. È vero. Questo è stato, credo, sì, il primo album registrato con il loro famoso studio mobile. È famoso, vero, studio mobile. Nella terza strofa si muove con The Water, dice The Rolling Track Stones. È vero, sì. Piano prestato. Era il loro studio di registrazione mobile, che loro hanno buttato dentro la famosa villa di Nellcote, dove, certo, c'era un delirio di musicale, gente, e non musicale, soltanto nei sotterranei loro registravano, e hanno registrato, praticamente fatto la prima registrazione casalinga, che però è diventato un disco famosissimo. Exile on Main Street, un grossissimo doppio rischio vinile, per, esatto, grossissimo rischio, perché ai tempi il disco doppio per le case discografiche era quasi era un suicidio artistico. Era quasi già loro, però, Rolling Stone Records, era già loro, credo di sì, era, sì, già, sì, Rolling, sì, Stone, sì, era già Rolling Stone Records, quindi, però, insomma, hanno fatto un grande azzardo, però, sì, i ragazzi ce l'hanno nel loro DNA, ce l'hanno fatto, insomma. Poi, vabbè, la versione originale contiene parecchie cose, però vabbè, la cosa che mi piace è cercare di salvare un pochino il groove. Senza groove non andiamo da nessuna parte, lo sappiamo, ragazzi, dalla dance in avanti. Però se non c'è non andiamo. E qui invece abbiamo un altro. Questo brano qui lo dedichiamo a un'amica, Carla, che credo ci stia ascoltando da Roma. Bene. Io lo dedichiamo, che è una passione. So bene che è una appassionata di Rolling Stones e Keith Richards. Every time I walk in all on the street, some pretty mama start breaking down on me, so breaking down. Baby, please, so breaking down. Stop it, gonna buzz your brains out, baby. Gonna make you lose your mind. You sudden a woman, now you just some clown. You don't know nothing about her, my reputation down. So breaking down. Mama, please, stop breaking down. Stop it, gonna buzz your brains out, baby. It's gonna make you lose your mind. Baby, 99 degrees, but mama got a pistol laid down on me, so breaking down. Maybe please stop breaking down. Stop it, gonna bust your brains out, baby. Gonna make you lose your mind. Every time I'm walking all down the street, some pretty woman start breaking down on me, so breaking down. Mama, please, so breaking down. Stop it, gonna bust your brains out, baby. Gonna make you lose your mind. Stop it, gonna bust your brains out, baby. Gonna make you lose your mind. Stop it, gonna bust your brains out, baby. Gonna make you lose. Gonna make you lose. Gonna make you lose your mind. Non c'è solo chitarra, c'è uno che si strugge e gira in auto da solo di notte per pensare, c'è uno che pensa al suono, c'è uno che soffre, il blues è vissuto anche come lacrime. Chi è che l'ha scritta questa qua? No, ma lo conosci? Chi è? Bellissima questa, questo è uno stralcio di una nota che ha messo Daniele Bonadei nel suo profilo di Facebook, molto bello, molto intensa. Beh, il blues, insomma, secondo me lo devi vivere in qualche modo, ognuno trova la sua dimensione, cioè, però insomma... devi incanalare, adesso senza voler fare come al solito il professore. Però in qualche modo un po' il, se vivi un dolore, vivi una lacrima, ci sono delle canzoni che hanno il loro senso anche quando stai vivendo. Chiaro, poi uno può ascoltare Baglioni, gli va benissimo, io non ascolto, non sono un fan di Baglioni, per me il blues è la mia la dimensione, cioè, può esserci un brano di questo tipo che è un po' più stradaiolo, un po' più scanzonato e va bene così. Può esserci un brano come Have You Ever Loved a Woman piuttosto che Stormy Monday, che sono dei brani dove ti dicono ok, la mia baby è andata via, io vado in chiesa, sono fuori a suonare sabato sera, ma la domenica mattina vado in chiesa, mi inginocchio e prego che Dio abbia pietà e che lei torni indietro. Pure Have You Ever Loved a Woman, che è un altro brano con tre strofe dolorosissime, però è meraviglioso. Ci sono delle cose che ti avvengono per cui dopo riesci anche a cantare meglio queste cose, perché dopo un po' sai di cosa stai parlando. Potresti avere un anello col teschio, uno potrebbe averlo non solo per fare il ribelle rock and roll, yeah, no? Uno potrebbe avere un anello col teschio anche per dire ok, ho fatto una specie di discesa all'inferno e adesso sono tornato indietro. Molti, Eric Clapton ha messo l'anello col teschio quando ha smesso di bere. Sì. Ognuno può avere questo anello per una vittoria. Beh, è chiaro che fa molto, molto rock and roll, che ogni tanto me lo chiedono in prestito, scusa, fammi sentire come ci sente a essere rocker. Quindi chiaramente c'è sempre un po', come diceva quella, voleva fare lo sborone? Sì. Chiaramente, quindi c'è questa cosa, però può avere anche un senso un pochino più profondo, se vogliamo. 23:36, questa è sempre Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino con Maurizio Calzavara, tenervi compagnia ancora per circa 30 minuti scarsi, ma in la compagnia ce la sta facendo musicalmente parlando e anche vocalmente ovviamente, insomma, Daniele Boladei che ci raggiunge da Milano. Maurizio, scusami, ti avevo interrotto. Sì, no, volevo solo chiudere grande parabola, non si chiude mai, su Kate Richard. Io ho visto che nella scaletta c'è un altro pezzo dei Rolling, velocissimamente, quello che vuoi. a tuo piacimento, così terminiamo in bellezza il pezzo dedicato a Keith Richards. Ma sì, facciamo un pezzetto. Un pezzetto piccolino, la gente lo conosce immediatamente, senza nessun problema. Si girano le pagine dal vivo, Sì, sento sì, tutto dal vivo. Perché uno abbia la Bibbia, no? Sì. Però... Mi perdonino i puristi, non andrò in accordatura aperta, scusate, ma... A man, a jean soak, a bar queen in Memphis. She tried to tell me up so for a ride. She had to have me ride across her shoulder, cause I just can't seem to drink you on my mind. Is a honky tonk woman. Gimme the honky tonk blue. Is a honky tonk woman. Gimme the honky tonk blue. Gli amanti dei Rolling sono stati soddisfatti. Direi di sì. Assolutamente. Anche gli amanti dei Rolling di Roma, vorremmo aggiungere. Soprattutto. Anche quelli di Roma. Benissimo, adesso lentamente ci avviciniamo all'uomo in nero, lentamente ma progressivamente. Magari anche quelli della Lombardia, del Veneto, magari. Certamente. E ci avviciniamo all'uomo in nero con Merle Haggard. Chi è? Non è conosciutissimo, però come gli amanti del blues lo conoscono. Certo che lo conosco. Chiaramente. È un... Come possiamo definirlo, Daniele? È un esponente di un movimento che... Perché tutti pensano al country, pensano violini, il country and western, pensano forse al film dei Blues Brothers. Che genere fate in questo locale? Entrambi i generi, il country e il western, pensano a Stand By Your Man, certo. Pensano a qualche cosa di... A parte che Stand By Your Man ha anche un testo... Non è proprio... rose e fiori, diciamo, no? Come diceva quello, la vita non è tutta rosa e fiore, no? Sì, certo. Pensano a qualche cosa di sdolcinato, un po' il classico suono di Nashville. Lui comunque è un cantante country. È un cantante country. Assolutamente. Però all'interno del country ci sono anche i movimenti, c'è il movimento outlaw, che è il movimento un po' fuori legge, che andava un po' fuori dai confini del, diciamo, del country normale, per trattare degli argomenti un po' più pericolosi. Per esempio, Merle Haggard ha lavorato su molti brani, però quello che vi ho portato stasera, che mi piacerebbe fare, se lo riesco a trovarlo, perché non è detto che io riesco a trovarlo blues, da qualche parte, è un brano che parla del blues dell'uomo che lavora. Esattamente. Ed è uno che dice, è difficile fare una vita... di questo tipo, con una vita dura, con 9 figli e una moglie. Esattamente. Insomma, ragazzi, non è che si è tirato fuori qualche cosa di facile. Pezzo del 1969, questo qua. Eh sì, forse è uno dei più famosi, assieme a Okie from Muskogee. Sì, esattamente. Esatto, se non sbaglio. Ragazzi, devo trovarlo, perché dovete avere pazienza. Lui è uno che ha portato molte canzoni ai vertici della classifica, Maurizio. Ma Merle Haggard è in attività da moltissimo tempo, ma non è uno così conosciuto dalle nostre parti. No. Assolutamente. Tu lo conosci perché ami... Perché amo il country. Ami il country, anche quel genere. Là. Però, per esempio, questo brano è uno che viene, quando fanno, spesso negli Stati Uniti fanno dei tributi a lui, e viene spesso suonato. Certo, attenti. L'hai trovato, era l'ultimo della lista. Come al solito, quando cerchi le posate, il coltello è sempre l'ultimo. Questo Walking Blues, che dice, è un gran lavoro lavorare per 9 figli e una moglie, però sono stato un uomo che lavora fin dall'inizio. È un bel brano tosto. Lavorerò finché le mie due domani possono permettermelo, però la mia birra in taverna, e canterò un pochino di questo blues dell'uomo che lavora. Ecco. Molto semplice, però dice... Gli uomini che lavorano come me, poi in questo momento di crisi un bel blues bel uomo che lavora è auspicabile, non sono mai stato disoccupato, non è un posto dove io andrò la disoccupazione, perché lavorerò finché le mie due mani possono permetterlo, insomma non ha voglia di scherzare, questo qua, però lasciategli bere la sua piccola birra nella taverna. Quello è fondante. E questo qui lo rivediamo un pochino come chiaramente alla Daniele. Alla Daniele. It's a big job just getting by with nine kids and a wife. I've been a working man down here all my life, and I'll be working as long as my two hands are fit to you. I drink my beer in a tavern, sing a little bit of this working man blue. I keep my nose on the grindstone, so I work hard every day. Might get a little tired the weekend, I flood on my pay, but I go back working. Come on the Monday and ride back with the crew. I drink a little bit of an evening, sing a little bit of this working man blue. Hey, hey, hey, hey, the working man like me. I never been well for West One, please I won't be, cause I've been working long as my two hands are free to you. I drink a little bit of that tumble, sing a little bit of this working man blue. Sometimes I think about living the little mommy around. I wanna throw my beads out the window, catch a train to another town, but I go back working. Gotta buy my kids a brand new pair of shoes. Drink a little beer in a tavern, cry a little bit of this working man blue. Hey, hey, hey, the working man like me. I ain't never been on welfare, but one place I won't be, cause I've been working as long as my two hands are feet to you. I'll drink a little bit on a tavern, sing a little bit of this working man blue. Drink a little bit on a tavern, cry a little bit of this working man blue. Bravissimo, bravissimo Daniele. Grazie. Bravissimo. È stato bravissimo. Io amo questo invece di Merle Haggard. Cantami tornando a casa. A warden led a prisoner down the hallway to his doom. Non mi toccare Merle Haggard. Ok Maurizio? Sing Me Back Home, che tra l'altro quando Graham Parsons ha conosciuto Keith Richards hanno fatto un gran Merle Haggard, tra l'altro esattamente. Annel Cott, tra l'altro, quindi sì. Poi lui tra l'altro è un grande amico anche di Willie Nelson, quindi sì, ma Keith Richards ha conosciuto molto bene Graham Parsons purtroppo. Molto bene. Adesso arriviamo al clou del programma, l'uomo in nero, Johnny Cash. Almeno 4 pezzi di Johnny Cash li devi fare, perché dopo abbiamo 43, 40, se no te ne faccio 25 per arrivare fino alla mezzanotte. È tutto previsto. E poi finiamo con Christopher Cross. Ma adesso parliamo di L'uomo in nero. Tu hai cominciato, hai scritto nella scaletta e vorresti fare Folsom Prison Blues, che non è, nella melodia non è proprio un pezzo di Johnny Cash, l'ha copiata nel 53 da Gordon Jenkins. È così? È vero. Però, insomma, come al solito, chi sarà stato il primo a fare che cosa? è stato ripreso, però, ragazzi, lui ne ha fatto un grandissimo successo. Poi, vabbè, è chiaro che poi succede magari una cosa che hai nelle orecchie e magari lo fai, insomma. Però io credo fermamente nella genuinità di Johnny Cash. Sì, siamo d'accordo. E su una questione statistica, un'altra questione statistica, lui era militare in Germania Ovest. Esatto. Quando... Ha composto questo brano, e nella seconda strofa lui dice: ho ucciso un uomo a Reno in Nevada, certo. Dove giusto per vederlo morire. E lui si è immedesimato in un delinquente, in un criminale, e ha pensato al modo più stupido per far fuori qualcuno, e gli è venuto in mente questo. Quindi tanto è un testo molto molto interessante. Poi uno dei suoi primi live, che poi il primo disco che è uscito registrato, era proprio nella prigione di Folsom. È vero. Ed è un disco che ha fatto epoca, assolutamente. Lui è stato il primo ad andare a registrare per i carcerati, era molto amato, è stato anche lui dietro le sbarre qualche certo, volta, chiaramente, perché ne ha combinate davvero di tutti i colori. Per chi fosse all'ascolto e non avesse mai visto, consiglio di dare una bella guardata a Walk the Line, che è il film con Joaquin Phoenix, che è veramente un bel film. Non è correttissimo dal punto di vista storico, un po' romanzato chiaramente, però è bello, ci dà un bel quadro fino più o meno al 69 con della vita di Johnny Cash. Prego. Lui iniziava dicendo: Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But the train keeps rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear a whistle blowing, I hang my head and cry. But the rich folk eating in a fancy dining car, they're probably drinking coffee and smoking big cigars. But I know I had it coming, I know I can be free. But those people keep moving, and that's what tortures me. Liver freed me from this prison, and my rebel chain was mine. I never moved it on a little farther down the line. Far from Folsom prison, that's where I want to stay. And I let the lonesome whistle blow my blues away. Bellissima, visto che abbiamo poco tempo, dobbiamo proseguire, purtroppo il tempo è quello, e andiamo un altro pezzo di Johnny Cash, 1958 stavolta, scritto assieme al suo fratello Roy Cash, che si chiama I Still Miss Someone. Questo è un altro brano mai pubblicato come singolo, fatto anche con Bob Dylan, mai pubblicato con Bob Dylan, vero che è così? Sì. E tra l'altro è un brano che nella versione originale ha cori nel classico stile country, ma a me piace la versione che lui fa nel Live at Folsom, molto semplice e cruda, però è lirica. Il testo anche qui è molto molto semplice, molto, è anche molto molto triste, perché fondamentalmente è ancora una persona innamorata della sua fidanzata che se n'è andata, chissà perché, chissà per come, e da qualche parte c'è qualcuno per me, ma a me manca ancora qualcun altro, ed è bellissima. Io devo essere sincero, ho pianto diverse volte ascoltando questa canzone, è veramente una capolavoro, direi. Esattamente. And my door, the leaves are falling, a cold wild wind will come. Sweethearts walk by together, and I still meet someone. I go out on a party and look for a little fun. But I find a darkened corner, 'cause I still meet someone. Although I never got over those blue eyes, I see them everywhere. I miss those arms that held me when all the love was there. I wonder if she's sorry for leaving what we'd begun. There's someone for me somewhere, and I still miss someone. Oh no, I never got over those blue eyes, I see them everywhere. I miss those arms that held me when all the love was there. I wonder if she's sorry for leaving what we'd begun. There's someone for me somewhere, and I still miss someone. Non so che mi guardi sempre, bellissima, so, bellissima, è il tuo mondo. La tua espressione, la tua espressione. Adesso, quanto sei cresciuto questa sera? Ah, moltissimo, moltissimo. Vorrei che non finisse mai. Poi lamentati. Siete fantastici, ragazzi. Vorrei che non finisse mai. Purtroppo abbiamo poco tempo. Adesso faccio correre. Un'altra canzone, ci ascoltiamo e poi, no, ci salutiamo. Ce ne siamo due. Sì, questa e poi ci salutiamo. Ce ne siamo due. Allora, siccome possiamo fare due canzoni. Possiamo farne due. Fai una cosa, fra un mix assieme. Un mix. Fai un mix di, fai qualche secondo di Man in Black e qualche secondo di Solitary Man. Va bene. Ok. Dai, una spiegazione velocissima di Man in Black, così la gente capisce. Man in Black, Johnny Cash è sempre stato conosciuto come l'uomo in nero, The Man in Black, perché si è sempre vestito di nero. Nessuno sa davvero il motivo. All'inizio sembrava che lui non avesse null'altro da mettersi. In realtà poi lui ha deciso di vestirsi di nero per tutti quelli che non possono portare i colori, non possono vivere dei momenti luminosi, e per cui lui ha deciso di essere The Man in Black. Esattamente. Well, you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seems to have a somber tone. Well, the reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, angry side of time. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he is a victim of the time. I wear the black for those who's never read, Listen to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity, why you think he's talking straight to you and me. And well, for the thousands who have died believing that the Lord was on their side, I worry for another 100,000 who have died believing where we all were on their side. Oh, I love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay, but I try to carry off a little darkness on my bed, feel things I'd rather, I'm the man in black. Tagliata e mixiamola, e poi, scusate, ma per farla come la faceva lui. Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim, loving him. But you come along, love is strong, that's what I thought. Me and you, bet that I do. Don't know what I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. I had to sit here being well, love and smile were part-time thing. Peppering. I know it's been done, have you one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know what I will, but until I can find me the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man, solitary man. Non piangerò mai sul denaro che spendo, ne riavrò. In italiano, hai visto? Eh sì, ringrazio. Sai chi c'è che suona qui in questa canzone? Oltre a cantare Gianni Morandi, ok. Sai chi è che è il musicista qui? È San Morricone. Perfetto. Allora sei bravissimo, Ringraziamo Gianni Morandi, Chris Isaac, sì, Neil Diamond e soprattutto il Bambino Nero. E soprattutto Johnny Cash per averci fatto sognare, perché comunque noi sentiamo delle cose, ma adesso c'è la pubblicità di una gomma da masticare e sotto si sente qualche cosa che sembra Johnny Cash. È stato campionato da dei DJ, giusto per riprendere il vostro collega che c'era qui prima, è stato campionato da dei DJ una parte di Walk the Line, insomma so. Il ragazzo ci sa fare, ci ha saputo, io dico ci sa fare perché tanto per me non è morto, quindi alcuni non ci lasciano, certo, quindi... certamente. Daniele, grazie di cuore, siamo arrivati veramente alla fine, grazie, io so che grazie devo a voi. E ti devo chiudere quasi il microfono, però insomma è sempre piacevole stare in tua compagnia, lo sai, le porte per te saranno sempre aperte quando ci vorrai venire a trovare. Maurizio crescerà di qualche chilo ogni volta. Portati sempre una scaletta simile, quindi stai sicuro che farai felice Maurizio. Ma a parte gli scherzi, ti ringraziamo veramente di aver accettato l'invito per venirci a trovare. Ringrazio io voi ragazzi, Agostino grazie mille, Maurizio grazie mille anche a te. Grazie di tutto, sempre un piacerone, veramente anche per noi, assolutamente. Devo già prenotare il prossimo spritz? Sì, va bene. Per sicurezza sì, sì, va bene. I prossimi tre direttamente. Con cosa ci saluti adesso? Quello che vuoi Daniele, assolutamente. Ma io vorrei salutarvi con un pezzettino di un brano di Muddy Waters, così, proprio, okay. Che si intitola, è un arrangiamento rifatto, fatto e rifatto, si intitola I Got My Mojo Working, è tipo il mio mojo, il fascino, diciamo, del blues, che funziona, ma su di te non funziona. Un piccolo, giusto un paio di strofe per salutarci. L'appuntamento è domani sera con sì. La storia del rock, questa volta solo CD. Solo CD, niente dal vivo, però saranno 3 ore all'insegna della storia della musica rock. Ecco. Vi aspettiamo. Grazie. Ciao Daniele. Ciao. Grazie. Permettetemi solo di ringraziare i ragazzi non voglio fare pubblicità, però del negozio di Milano che mi fornisce le chitarre di Chris Music, che sono sempre attenti e mi assistono sempre. Bene. E Muddy Waters.